Bene, il prossimo pezzo è stata la nostra prima canzone. Si chiama Difendi la tua storia. È contenuta anche nel nostro demo che potete scaricare da Giamendo. Su MySpace, al nostro sito www.myspace.com/sistemaliquido. Oppure? Giamendo Artist Sistema Liquido. Ok, grande Vittorio. Difendi la tua storia. Yeah.